Roma, 7 maggio, ore 14, Piazza della Repubblica. Manifestazione nazionale Stop TTIP per difendere ambiente, agricoltura, servizi pubblici e Made in Italy dalla minaccia del TTIP, l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Oltre 300 organizzazioni in piazza per dire no all'abbattimento delle tutele, dei diritti civili e della sicurezza alimentare. Sabato 7 maggio a Roma partecipa anche tu. Per informazioni, stoptitipitalia.net. Tutte e tutti insieme possiamo fermarlo.